ad alta voce. Sandra Toffolatti legge Il diario di Etty Hillesum. Traduzione di Chiara Passanti. 21 ottobre, dopo pranzo. La nascita di un'autentica autonomia interiore è un lungo e doloroso processo. È la presa di coscienza che per te non esiste alcun aiuto o appoggio o rifugio presso gli altri, mai. Che gli altri sono altrettanto insicuri, deboli e indifesi, che tu dovrai essere sempre la persona più forte. Non credo che tu sia il tipo da trovare queste cose in un altro. Sei sempre e da capo rimandata a te stessa. Non c'è nient'altro. Il resto è finzione. Ma doverlo riconoscere ogni volta, soprattutto come donna. Hai pur sempre un gran desiderio di perderti in un altro, ma anche questa è una favola, seppur bella. Due vite non possono combaciare, perlomeno non per me. Può succedere in alcuni momenti, ma quei momenti giustificano una vita in comune? Possono tenerla insieme? Però è un sentimento forte anche quello, talora felice. Sola, mio Dio, è dura, perché il mondo è inospitale. Ho un cuore molto appassionato, ma mai per una persona sola, per tutte le persone. È un cuore molto ricco, io credo. Una volta pensavo sempre che lo avrei dato tutto a una persona sola, ma è impossibile. E quando, a 27 anni, si arriva a verità così dure, ci si sente a volte disperati, soli e impauriti, ma anche indipendenti e orgogliosi. Sono affidata a me stessa e dovrò cavarmela da sola. L'unica norma che hai sei tu stessa, lo ripeto sempre, e l'unica responsabilità che puoi assumerti nella vita è la tua, ma devi assumertela pienamente. E ora si telefona a S. Venerdì mattina, le 8. Signore, dammi meno pensieri e più acqua fredda e ginnastica alla mattina presto. La vita non può essere colta in poche formule. In fondo, è quel che stai cercando di fare tutto il tempo e che ti porta a pensare troppo. Stai cercando di rinchiudere la vita in poche formule, ma non è possibile. La vita è infinitamente ricca di sfumature. Non può essere imprigionata né semplificata, ma semplice potresti essere tu. Giovedì mattina. Stupida che sei, smettila con quel cervello. Vuoi espanderti tutta in una parola, in parole colorate e estese, ma quelle parole non potranno contenerti. Il mondo e il cielo di Dio sono così vasti. Non sono vasti abbastanza? Questo voler ritornare al buio, al grembo materno, al collettivo e d'altra parte diventare autonoma, trovare la mia forma, strapparla al caos. Sono tirata ora da un estremo, ora dall'altro. 24 ottobre. Questa sera una nuova ordinanza che colpisce gli ebrei. Mi sono concessa mezz'ora di depressione e di ansia per queste notizie. Una volta mi sarei consolata mettendomi a leggere un romanzo e lasciando perdere il mio lavoro. Ora devo elaborare l'analisi di Misha. È troppo importante che abbia reagito così bene al telefono. Non bisogna essere troppo ottimisti, ma merita di essere aiutato. Finché lo si può raggiungere, sia pur passando per un minuscolo forellino, bisogna approfittarne. Forse questo l'aiuterà nella sua vita. Non bisogna sempre pretendere dei grandi risultati, ma bisogna credere in quelli piccoli. Sono già 2 giorni che lavoro senza lasciarmi andare ai miei umori. Brava ragazza. Sono così attaccata a questa vita. Cosa vuoi dire con questa vita? La vita comoda che fai adesso? Si vedrà con gli anni se sei veramente attaccata alla vita, nuda e semplice, in qualunque forma essa si presenti. Ci sono forze sufficienti in te. C'è anche questo, che uno trascorra la vita ridendo o piangendo è sempre una vita. Ma c'è anche la dinamicità occidentale, che ogni tanto si fa sentire con forza. Sei sanissima, stai crescendo in direzione di te stessa, stai diventando autonoma. E ora al lavoro. Dopo una conversazione con gli app, di tanto in tanto ci gettiamo vicendevolmente dei frammenti su noi stessi, ma non credo che ci capiamo. Giovedì mattina. Paura di vivere su tutta la linea. Cedimento completo, mancanza di fiducia in me stessa, repulsione, paura. 21 novembre. È curioso che mentre mi sono sentita piena di istinto creativo ultimamente, scriverei pagine e pagine della novella La ragazza che non voleva inginocchiarsi o qualcosa di simile, e vorrei anche scrivere su quella minuta signora Levi che mi interessa non poco e su tante, tantissime cose. Ecco che invece, d'un tratto, io debba notare questo, come se mi avesse morsicato una vipera. Io balzo dal divano foderato di azzurro, incalzata da una domanda. La domanda. Mentre sono piena di problemi di etica, di verità e persino di Dio, ecco che spunta fuori un problema di cibo. Forse qualcosa per un'analisi, dopo tutto? Una volta ogni tanto, però già meno spesso che un tempo, io mi rovino lo stomaco semplicemente perché mangio troppo, e cioè per mancanza di controllo. So che debbo fare attenzione, e invece mi prende una sorta di avidità contro cui non c'è ragionamento che tenga. So che dovrò pagar caro quel po' di piacere, per un semplice boccone di troppo che ho mangiato, eppure non riesco a trattenermi. E d'un tratto mi viene da pensare che io abbia un problema col cibo e che questo problema potrebbe magari essere messo in chiaro. Dopotutto è un fatto simbolico. Probabilmente ho la stessa avidità nella mia vita spirituale. Questo voler incamerare un'enorme quantità di cose che ogni tanto culmina in una pesante indigestione potrebbe essere una spiegazione, e forse esiste una relazione tra la mia avidità e la mia cara mamma. La mamma parla sempre di cibo, per lei non esiste altro. Su, mangia qualcosa, non hai mangiato abbastanza, come sei diventata magra. Mi ricordo ancora come l'avevo vista mangiare a una festa di casalinghe anni fa. Io ero seduta sulla balconata di quella piccola sala del teatro di Deventer. La mamma era seduta in basso, a una tavola con molte altre casalinghe, e aveva un vestito azzurro guarnito di pizzi e mangiava completamente assorbita dal cibo, mangiava con avidità e con abbandono. A vederla così d'un tratto da quella balconata aveva qualcosa di toccante. Mi disgustava insieme, mi faceva una pena enorme, non riuscivo a spiegarmelo. Era come se temesse che le sarebbe venuto a mancare qualcosa nella vita. Era uno spettacolo terribilmente triste e bestialmente disgustoso. Così lo vedevo io. In realtà lei era una casalinga dal vestito azzurro guarnito di pizzi che mangiava la minestra. Ma se potessi capire tutto quel che mi sentivo dentro e come la osservavo allora, io capirei molte cose di mia madre. Con quella paura che nella vita ti sfugga qualcosa finisci per perdere tutto, per mancare la realtà. Sabato mattina. Desidero e insieme temo quel momento della mia vita in cui mi troverò sola con me stessa e con un pezzetto di carta e non farò altro che scrivere. Non oso ancora, non so perché. Mercoledì, per esempio, ero al concerto con esse. Quando vedo molte persone insieme vorrei scrivere un romanzo, Nell'intervallo avrei voluto avere un pezzetto di carta per annotare qualcosa, anche se non sapevo che cosa, dipanare i miei pensieri. Invece esse mi ha dettato delle note su un suo paziente, soggetto interessantissimo, bizzarro anche, ma io dovevo di nuovo tirarmi da parte. Questo render conto di se stessi, questo sentir continuamente il bisogno di scrivere e non osare ancora di uscire allo scoperto. Credo che anche in generale io tenda a rimuovere troppe cose da me stessa. A volte ho la sensazione di essere una personalità piuttosto forte, ma agli altri mostro sempre gentilezza, un interessamento, una benevolenza che vanno spesso a scapito di me stessa. Allora ho questa teoria. Una persona deve avere abbastanza senso sociale da non infastidire gli altri coi propri umori. Ma non si tratta affatto di umori. Reprimendo me stessa io ridivento asociale, nel senso che poi non ci sono per nessuno, per giorni interi. Da qualche parte in me ci sono una malinconia, una tenerezza e anche un po' di saggezza che cercano una forma. A volte mi passano dentro dialoghi, immagini, figure, atmosfere, questo improvviso affiorare di qualcosa che dovrà diventare la mia verità. Questo amore per gli altri che dovrà essere conquistato, non nella politica o in un partito, ma in me stessa. C'è ancora una falsa timidezza che mi impedisce di confessarlo. La ragazza che non sapeva inginocchiarsi, e che pure lo aveva imparato, sul ruvido tappeto di cocco di una disordinata camera da bagno. Ma sono faccende intime, quasi più intime di quelle del sesso. Vorrei poter rappresentare in tutte le sue sfumature questo processo interiore, la storia della ragazza che aveva imparato a inginocchiarsi. Stanotte ho risposto con un sogno al mio recente complesso del cibo. C'era un frammento molto chiaro, perlomeno uno crede che sia così. Nel momento in cui provi a descriverlo, quello ti sfugge. Parecchie persone intorno a un tavolo, tra cui io e esse a capotavola. Esse chiedeva: «Perché non vai mai a trovare gli altri?» Io: «Perché quel mangiare è una tal noia». Allora lui ha fatto quella sua famosa faccia, avrò bisogno di una vita intera per saperla rendere, ce l'ha quando è irritato e trovo che è l'espressione più forte che possa avere il suo viso. E ci ho letto qualcosa come: «Dunque è così che sei, il cibo è così importante per te». Ho avuto questa sensazione, adesso mi ha vista dentro, adesso sa esattamente quanto io sia materialista. Non ho reso bene questo sogno, non è un sogno che si possa capire, però quella coscienza improvvisa, adesso mi ha vista dentro, adesso sa come sono fatta, è stata molto forte e così pure lo spavento che ne ho provato. Ancora mi è rimasto qualcosa della trasfigurata vastità di stanotte, pace e nuovo spazio per tutto quanto. Un po' innamorata e ancor più affezionata a Han, non più in conflitto con esse, neppure col suo lavoro. Andrò per la mia strada. Questa piccola deviazione non è grave. Perché affrettarsi? La sua vita maturava lentamente verso il proprio compimento. Sì, a volte sento così. Se solo fosse vero. Questa vasta giornata è tutta mia. Scivolerò in essa molto dolcemente, senza nervosismo e senza fretta. Riconoscenza, un'improvvisa, profonda e consapevole riconoscenza per questa stanza chiara e spaziosa con largo divano, la scrivania coi libri, l'uomo tranquillo che è vecchio e giovanissimo al tempo stesso, e sullo sfondo l'amico dalla bocca grossa e buona, che non ha segreti per me e a volte può ridiventare segretissimo. ma soprattutto c'è ancora quella chiarezza e pace e fiducia in me stessa, come se, trovandomi in un fitto bosco, d'un tratto io giungessi a un luogo aperto in cui coricarmi sulla schiena e riposare e guardare il cielo. So bene che fra un'ora potrà essere diverso, soprattutto in questa situazione precaria con la parte inferiore del mio corpo in fermento. Martedì mattina, 9:30. Qualcosa mi sta succedendo e non so se si tratti di un semplice stato d'animo o di un fatto importante. Mi sembra di reggermi di nuovo su me stessa. Sono un po' più autonoma e indipendente. Ieri sera pedalavo per la fredda e buia Larisestrat. Se solo potessi ripetere tutto quel che ho borbottato allora. Mio Dio, prendimi per mano. Ti seguirò da brava. Non farò troppa resistenza. Non mi sottrarrò a nessuna delle cose che mi verranno addosso in questa vita. Cercherò di accettare tutto e nel modo migliore. Ma concedimi di tanto in tanto un breve momento di pace. Non penserò più nella mia ingenuità che un simile momento debba durare in eterno. Saprò anche accettare l'irrequietezza e la lotta. Il calore e la sicurezza mi piacciono, ma non mi ribellerò se mi toccherà stare al freddo, purché tu mi tenga per mano. Andrò dappertutto allora e cercherò di non avere paura. E dovunque mi troverò, io cercherò di irraggiare un po' di quell'amore, di quel vero amore per gli uomini che mi porto dentro. Ma non devo neppure vantarmi di questo amore. Non so se lo possiedo. Non voglio essere niente di così speciale, voglio solo cercare di essere quella che in me chiede di svilupparsi pienamente. A volte credo di desiderare l'isolamento di un chiostro, ma dovrò realizzarmi tra gli uomini e in questo mondo. E lo farò, malgrado la stanchezza e il senso di ribellione che ogni tanto mi prendono. Prometto di vivere questa vita sino in fondo, di andare avanti. Certe volte mi viene da pensare che la mia vita sia appena all'inizio e che le difficoltà debbano ancora cominciare. Altre volte mi sembra di aver già lottato abbastanza. Studierò e cercherò di capire, ma credo che dovrò pur lasciarmi confondere da quel che mi capita e che apparentemente mi svia. Mi lascerò sempre confondere per arrivare, forse, a una sempre maggior sicurezza, fin quando non potrò più smarrirmi e si sarà stabilito un profondo equilibrio, un equilibrio in cui tutte le direzioni saranno sempre possibili. Non so se potrò essere un'amica per gli altri, e se non potrò esserlo perché non è nel mio carattere, bisogna che affronti anche questo. In ogni caso non devi mai illuderti, devi avere misura, e tu sola puoi essere misura a te stessa. È come se ogni giorno io sia scaraventata in un gran crogiolo e ogni giorno io riesca a uscirne. Certe volte mi capita di pensare: la mia vita è completamente sbagliata, c'è un errore. Ma questo capita solo quando ci si fa una determinata idea della vita, rispetto a cui può apparire sbagliato come realmente viviamo. È proprio come se la mia posizione nei confronti di esse sia improvvisamente mutata, come se d'un tratto io mi sia staccata da lui, pur credendomi già libera. Come se io abbia capito nel profondo di me stessa che la mia vita sarà del tutto indipendente dalla sua. Ricordo quando, diverse settimane fa, si parlava del fatto che tutti gli ebrei sarebbero stati spediti in un campo di concentramento in Polonia e che esse mi aveva detto: allora ci sposeremo, così potremo rimanere insieme e faremo ancora un po' di bene. E per quanto io avessi capito esattamente il senso di quelle parole, per qualche giorno mi ero sentita piena di calore e di attaccamento per lui. Ora questo sentimento è scomparso. Non so cosa sia. È come se io mi fossi completamente staccata da lui e ora andassi avanti per la mia strada. Si vede che le mie forze erano ancora investite in quell'uomo. Ieri sera, mentre pedalavo nel freddo, mi sono resa improvvisamente conto di quanta intensità, quanto impegno di tutta la mia persona io abbia messo nell'assorbire esse, il suo lavoro e la sua vita in quest'ultimo mezzo anno. Ora è successo. Esse è diventato parte integrante di me. E così proseguo, ma da sola. Di fuori non cambia nulla, naturalmente. Continuo a essere la sua segretaria e a interessarmi per il suo lavoro, ma dentro sono più libera. Venerdì mattina, 9:15. Ieri sera sentivo quasi di dover chiedergli scusa per tutti i pensieri brutti e ribelli che avevo avuto nei suoi confronti in questi ultimi giorni. Ho capito pian piano che nei giorni in cui proviamo avversione per il prossimo, in fondo proviamo avversione per noi stessi. Ama il prossimo tuo come te stesso. So che dipende sempre da me, mai da lui. Abbiamo un ritmo di vita molto diverso. Si deve permettere a ognuno di essere com'è. Quando vogliamo plasmare un altro secondo le nostre idee, andiamo sempre a sbattere contro un muro e siamo sempre delusi, non dell'altra persona, ma dalle nostre pretese insoddisfatte. È un atteggiamento molto poco democratico, ma umano. Forse con la psicologia si può arrivare alla vera libertà. Non ci si può mai ricordare abbastanza che dobbiamo renderci veramente liberi dagli altri, ma che insieme dobbiamo lasciarli liberi, evitando di farcene un'idea predeterminata nella nostra fantasia. Alla fantasia rimangono comunque dei campi abbastanza vasti, anche se non la si applica alle persone care. Ieri pomeriggio pedalavo verso casa sua in questo stato d'animo. Non ho voglia, non dirò una parola di troppo, mi sento così giù. E improvvisamente, all'angolo tra Pollolan e Michelangelo Strat, ho sentito il bisogno di annotare qualcosa sul mio taccuino. E così me ne stavo a scrivere al freddo sul fatto che ci sono tanti cadaveri sparsi nella letteratura e su quanto ciò sia singolare. Tanti morti senza ragione, tra l'altro. Insomma, diventava una cosa assurda, come succede spesso, se si pensa ai grandissimi pensieri che nascono nel nostro cervello e al balbettio confuso, scritto su poche righine blu all'angolo di due strade al freddo, che ne è poi il risultato. E così arrivai da esse, nelle sue camerette familiari che lo fanno apparire quasi gigantesco. C'era Ghera. Lei e io abbiamo parlottato un po', senza che esse ci potesse sentire con le sue orecchie deboli. Di nuovo stavo proprio bene. E poi, malgrado mi sentissi così fiacca, ho cominciato a buttar tutto qua e là per la stanza, disordinatamente, soprabito, cappello, guanti, borsa, taccuino, provocando lo sconcerto insieme al divertimento di esse e di Ghera, che chiedevano cosa avessi questa volta. Ho risposto: non ho voglia, voglio sabotare questa seduta. Ed era un miracolo che i vasi di fiori non volassero giù in pezzi dal ripiano della finestra. Il mio sfogo ha fatto visibilmente bene a Ghera. Forse aveva desiderato spesso di fare altrettanto, ma davanti a esse le era mancato il coraggio. «Bene, bene», diceva, «e forse la mia smania di ribellione le ha reso evidente quella che lei stessa avrà talvolta provato». La ribellione che di tanto in tanto si prova nei confronti di personalità molto più forti di noi. Una persona non può mai pensare in anticipo, neppure 5 minuti prima, tra poco sarò così e dirò questo e quello. Mi ero proposta di dirgli tante cose, questioni di principio, e di chiudere i conti con la chirologia, eccetera, eccetera, tutto così intenso e importante. E subito prima di andare da lui il mio umore era tale che non volevo più dire nulla. Partita Ghera, mi sono trovata coinvolta di punto in bianco in una specie di lotta fulminea con lui. L'ho gettato poco dopo sul divano dove quasi l'ammazzavo e poi avremmo dovuto metterci a lavorare duramente. Invece, ecco esse seduto nella grande poltrona d'angolo dalla bella fodera fatta da Adri, io come al solito ai suoi piedi, tutti e due immersi in un'appassionata discussione sulla questione ebraica. Ascoltandolo, mi sembrava di bere da una fontana rinvigorente. E la sua vita, non più deformata dalla mia irritazione, mi appariva di nuovo con chiarezza nel suo fruttuoso svilupparsi giorno dopo giorno. A volte, ultimamente, mi capita di vedere una singola frase della Bibbia in una luce nuova, ricca di significato e di vita. Dio creò il mondo a sua somiglianza. Amate il prossimo vostro come voi stessi, eccetera. Mi toccherà finalmente affrontare i rapporti tra me e mio padre, con coraggio e amore. Misha mi ha annunciato il suo arrivo per sabato sera, prima reazione orribile. Minacciata nella mia libertà, importuno. Che fare di lui? Invece di che piacere che quel bravo uomo possa starsene lontano per qualche giorno da quella sua moglie sempre agitata e da quella morta città di provincia. Cosa posso fare con le mie poche forze e mezzi per rendergli questo soggiorno il più piacevole possibile? Io, delinquente, sciocca, egoista. Ah sì, proprio così. Sempre prima pensare a te stessa, al tuo tempo prezioso, che hai poi usato per pompare ancora un po' di sapienza libresca nella tua testa già abbastanza confusa. E a che mi serve tutto ciò se non ho l'amore? Una splendida teoria per sentirsi nobile e in pace, ma nella pratica ti spaventi davanti al più piccolo gesto di amore. No, non è un piccolo gesto di amore, è una questione fondamentale, importante e difficile. Nel proprio cuore voler bene ai propri genitori, cioè perdonarli per tutte le difficoltà che ti hanno creato semplicemente con la loro esistenza. Difficoltà nell'attaccamento come nella repulsione e nel peso della loro vita complicata che si aggiunge alla tua. Mi sembra di scrivere delle grandi sciocchezze, poco male. E ora devo fare il letto di Pan e preparare la piccola lezione per l'allieva Levi, eccetera. Ma questo in ogni caso è il programma per il fine settimana. Nel mio cuore voler bene a mio padre e perdonargli se mi sottrae alla mia comoda tranquillità. Gli voglio in fondo molto bene, ma è, o piuttosto era, un amore complicato, ricercato, spasmodico e così mescolato alla compassione che quasi mi aveva spezzato il cuore. Ma era una compassione masochista, un amore che aveva portato a grandi esplosioni di compassione e dolore, ma non a un semplice gesto, a grande cordialità e darsi da fare, ma in modo così intenso che ogni giorno della sua permanenza qui mi era costato un intero tubetto di aspirine. Tutto questo però succedeva tempo fa. Ultimamente era già assai più normale. Tuttavia, sempre ancora il senso di essere incalzata e per questo probabilmente ero risentita con lui quando veniva a trovarmi. Ora devo perdonarglielo nel mio cuore e pensare e veramente sentire che bello che possa tirarsi via da là per un pochino. Ecco, questa era una buona preghiera mattutina.